Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 23 novembre, puntata numero 9 di Bologna e dintorni. Io sono Alessandro Albana e oggi, a due giorni dalla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, non potevamo non parlare di diritti delle donne, condizioni di vita e lotte femministe in prospettiva globale. La giornata del 25 novembre è stata istituita dall'ONU nel 1999 e la ricorrenza è quella della uccisione di tre attiviste politiche dominicane avvenuta proprio il 25 novembre del 1960. Oggi più che mai parlare di diritti delle donne, delle loro condizioni di vita, delle discriminazioni e delle violenze di cui sono oggetto, lo sappiamo, in modo sistematico a qualsiasi latitudine, quanto mai attuale, anzi urgente e necessario. Molti conosciuti sono gli aspetti su cui le donne vivono soprusi e discriminazioni quotidiane, non soltanto nella loro vita individuale, ma anche all'interno di cornici politiche come quelle statuali. Discriminazioni, disparità e violenze di cui sono oggetto le donne hanno innescato, hanno alimentato negli ultimi anni un'ondata crescente, estremamente significativa e sicuramente molto potente di lotte femministe, di rivendicazioni che si sono articolate in tante regioni del mondo, in tutti i continenti. La realtà ci presenta un quadro piuttosto contraddittorio, nel quale i diritti delle donne, seppur precari, molto spesso sono sotto attacco e sono oggetto oggi di una riconsiderazione anche nelle democrazie occidentali. Gli aspetti da toccare, da menzionare, le dimensioni critiche che riguardano la vita delle donne in tutto il mondo sono ovviamente tantissimi e molto rilevanti. Ci sarebbe tanto da parlare e il tempo è sempre poco. Vale però quantomeno la pena menzionare il diritto all'aborto che davvero negli ultimi anni è stato oggetto di un attacco revisionista in molte parti del mondo, in misura non minore che altrove anche nelle democrazie occidentali. Basti guardare alla campagna elettorale per le presidenziali negli Stati Uniti. Questa però è solo una faccia della medaglia. D'altra parte è giusto menzionare ancora una volta che le lotte femministe, le rivendicazioni femministe sono oggi forse il fenomeno, il movimento sociale, globale più potente e più determinato. A due giorni dalla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, proveremo allora a capire di più di questo quadro apparentemente contraddittorio e di che cosa sta succedendo alle donne, alla loro vita e alle loro prospettive e condizioni di vita nello scenario globale. Prima però qualche minuto di musica. Guardami negli occhi e poi dimmi non mi prenderanno mai. Oh, dimmi che c'è ancora posto nel tuo cuore, dimmi dove e quando io ci sarò. Dimmi dove e quando io ci sarò. stringimi le mani, noi cambieremo il mondo, lo faremo come volevi tu, ma quanto sei bella Teresa, lo sai con te muore ciascuno di noi. Teresa non piangere. Compagna Teresa, questi erano il Teatro degli Orrori, che prossimamente torneranno a calcare i palchi del nostro paese, torneranno anche a Bologna il 26 febbraio. Oggi, a qualche giorno dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, abbiamo in collegamento da Toronto, Canada, Eleonora Cappuccilli dell'Assemblea Donne Coordinamento Migranti Bologna. Buongiorno Eleonora. Ciao a tutti e tutti. Dunque, Eleonora, comincerei con una domanda che non ha nulla di specifico, ma che ci permette di introdurre, o ti permette di introdurci, il tema di oggi. Lotte femministe globali, a che punto siamo? Allora, questa è una domanda interessante perché nell'ultimo paio d'anni, specialmente a partire dal 7 ottobre, possiamo dire che una delle grandi urgenze con cui il movimento femminista si è dovuto confrontare è assolutamente quello della guerra. Decisamente la guerra è entrata all'interno dei ragionamenti, dei dibattiti, delle manifestazioni in tutto il mondo, non solo in Italia appunto, mostrando quanto sia urgente lottare come femministe contro la guerra in quanto intensificazione della violenza patriarcale. Questo messaggio del movimento femminista contro la guerra è anche quello che caratterizzerà il 25 novembre dappertutto nel mondo, in moltissimi contesti, proprio per contestare come le donne a più latitudini siano state arruolate nel discorso militarista, come madri della nazione, oppure come coloro che devono coprire i buchi del welfare, che è sempre più sottoposto a tagli, laddove invece tutte le spese vengono destinate a fondi militari. Non è solo una questione pratica e di investimenti, ma è anche un problema di una logica di guerra che si sta imponendo a tutte le latitudini. Possiamo però anche dire che la lotta femminista, che passa dall'Ucraina alla Palestina, è ciò che impedisce la mobilitazione dall'essere una mobilitazione totale. Non è possibile arruolare tutte e tutti quanti nei discorsi della guerra. Le donne stanno resistendo, come in Palestina, contro le bombe israeliane, ma anche contro una violenza maschile che esisteva da prima. E stanno resistendo in Ucraina, aiutando i disertori a scappare dal reclutamento. In ogni contesto i governi cercano di usare le donne come pedine per democratizzare la guerra, per presentarsi come stati liberali, laddove invece ci sono dei contesti barbari, ma sappiamo che invece laddove c'è la guerra la violenza viene legittimata, cioè un più alto livello di violenza che può essere giustificato a livello sociale. In Iran la guerra è al centro del movimento, delle rivendicazioni del movimento femminista per smascherare persone come il capo di Stato della Repubblica Iraniana che usa il suo essere l'eroe per invece rinserrare le fila autoritarie e patriarcali all'interno dell'Iran e per schiacciare il movimento Donna Vita Libertà, che da 2 anni sta rivendicando una libertà per le donne iraniane. La grande novità della lotta femminista contro la guerra la vediamo un po' ovunque. Vediamo appunto che il femminismo viene mobilitato dai governi e le donne stanno invece impedendo questo arruolamento. Anche in Russia abbiamo visto con Putin che diceva che le donne dovevano diventare le madri della nazione, e c'è stato un movimento di madri che invece hanno marciato, manifestato per dire: noi non saremo le madri di carre da macello. Quindi è una grande sfida che c'è a tutte le latitudini e si mostra come ciò che in questo momento è di più urgente verso il 25 novembre. E a proposito di trasversalità e di temi che toccano un po' tutte le latitudini, l'aborto, o meglio il diritto all'aborto, si è imposto negli ultimi tempi nel dibattito politico internazionale, perché rappresenta di fatto un diritto, una delle dimensioni che hanno registrato le limitazioni e l'arretramento più significativi sul piano globale e in tante regioni del mondo. Penso per esempio all'America Latina, all'Europa dell'Est, e recentemente, lo abbiamo visto anche nel corso della campagna elettorale presidenziale, negli Stati Uniti. Ci aiuti, Eleonora, a ricostruire lo stato dell'arte rispetto al diritto all'aborto? Sicuramente la libertà di abortire è sotto attacco un po' ovunque, perché è simbolo di quella libertà delle donne di essere o non essere madri. Il tentativo di mettere le donne ai propri posti, di elevare la famiglia come il luogo in cui vige la divisione sessuale del lavoro, che poi ovviamente si ripropone anche nelle gerarchie all'interno dei luoghi di lavoro. Quello di cui parlavamo anche prima, il rifiuto di quel diritto che permette alle madri di sfuggire all'imperativo di essere madri della nazione. Questo ragionamento quindi possiamo dire che si è amplificato ancora una volta con la guerra, e come dicevi tu, Trump ha usato la campagna elettorale per attaccare nuovamente l'aborto, dopo che molti stati già si stavano muovendo per limitarlo. Il segnale positivo però possiamo dire che è la vittoria di moltissimi referendum negli Stati Uniti. In contemporanea alle elezioni si sono tenuti anche appunto i referendum sull'aborto, e nella stragrande maggioranza, ovvero 7 stati su 10, anche nel sud, hanno ribadito il no a limitare l'aborto e proteggerlo su base statale, quindi rovesciando quella sentenza Roe vs. Wade, operazione che voleva essere fatta a livello federale, mentre a livello statale appunto le donne hanno mostrato che non possono rinunciare a quella libertà di non essere madri. In Polonia l'aborto è praticamente proibito, i medici, anche laddove la vita della donna è in pericolo, sono solo 2 le eccezioni, in caso di stupro, incesto e quando la vita della donna è in pericolo, questi dovrebbero essere i casi che permettono l'aborto. Anche in questi casi talvolta i medici si rifiutano di praticarlo per paura di essere perseguiti per legge. Quindi quasi sicuramente ogni donna incinta deve procurarsi un avvocato per proteggersi da eventuali complicazioni. L'aborto è una questione di classe, perché molte per procurarselo vanno altrove, vanno in Germania, in Regno Unito o in Olanda. E la cosa, diciamo, preoccupante rispetto al cambio di governo è che anche Tusk, che aveva promesso grandi cose e di riconoscere le lotte che in Polonia con la Black Protest avevano messo sotto sopra l'imperativo ancora una volta a essere madri, Tusk non ha di fatto cambiato niente, ma ha confermato che la libertà di aborto è troppo pericolosa, perché vuol dire rinunciare a quell'imperativo per cui ogni donna deve essere madre e contempo lavoratrice sfruttata dentro e fuori casa. In Italia anche possiamo dire che il diritto alla libertà di aborto non è in piena salute, perché come sappiamo l'obiezione di coscienza è ampiamente praticata, ma c'è soprattutto un attacco ideologico da parte forse del governo più patriarcale che abbiamo avuto negli ultimi anni, quello di Giorgia Meloni. E addirittura sappiamo che i gruppi pro-life possono entrare nei consultori. E la ministra Roccella ha detto che l'aborto non è mai stato riconosciuto come un diritto dal movimento femminista, quindi riscrivendo totalmente, cancellando la storia dei movimenti dagli anni 70 a oggi. Viaggiare per abortire diventa quasi l'unica possibilità, perché in molte regioni gli ospedali non hanno fondi e non hanno medici che lo pratichino. Parliamo anche delle studentesse migranti, per esempio, che da poco è stato approvato una nuova legge per cui le studentesse migranti devono pagare 700 euro l'anno per iscriversi al sistema sanitario. per cui abortire è semplicemente impossibile, perché significa pagare e sborsare una quota enorme. E infine volevo nominare l'Argentina. Anche qui ricordiamo benissimo le piazze gremite, milioni di persone davanti alla Casa Rosada che hanno ottenuto la libertà di aborto, ma con le elezioni di Milei ancora una volta vediamo l'aborto sotto attacco anche in America Latina. Milei ha fatto discorsi che equiparano l'aborto all'omicidio e i medici stanno trovando in questo una scusa per rifiutarsi di praticarlo. E il movimento argentino Ni Una Menos ha denunciato che i tagli alla sanità e i decreti neoliberali di Milei, che stanno rimuovendo il tetto ai prezzi dei medicinali, stanno rendendo il diritto di aborto ancora più difficile da esercitare. Quindi anche laddove qualcosa è stato conquistato da anni di mobilitazione, con l'ascesa delle destre la libertà di aborto è chiaramente sotto attacco come arma ideologica ovunque. Il corpo delle donne è un campo di battaglia, lo vediamo effettivamente sulla base del quadro che hai ricostruito. Eleonora, io ti farei un'ultima domanda nel tentativo di dare un tono positivo, se c'è, a questa puntata. Esistono dei processi a cui guardare con qualche ottimismo rispetto alle lotte femministe? Ci sono e dove sono? Come agiscono i processi? Quali sono i casi in cui si può dire di registrare un avanzamento in termini di agibilità di diritti, condizioni e anche prospettive di vita delle donne sul piano globale? Davanti a questo scenario che appunto sembrava un po' cupo, in realtà quello che, come anche Assemblea Donne del Coordinamento Migranti, stiamo provando ad affermare è che le donne continuano a lottare. Questa è una realtà globale che non può essere assolutamente cancellata, e lo stiamo vedendo anche a partire dall'Italia. Qualche giorno fa alcune studentesse di alcune scuole superiori hanno protestato contro i presidi che volevano fare un minuto di silenzio contro i femminicidi. Le studentesse hanno protestato perché non c'è niente per cui stare zitte. Bisogna protestare, alzare la voce, non c'è niente da commiserare, ma c'è un rapporto di potere da rovesciare. Il 25 e il 23 novembre a Roma e in contemporanea anche a Palermo ci sarà una grande manifestazione nazionale organizzata da Nuna di Meno contro la violenza maschile e patriarcale, che si chiama Disarmiamo il Patriarcato, per mostrare ancora una volta l'urgenza di connettere la lotta contro i femminicidi e la violenza maschile e quella contro la guerra che sta intensificando la violenza patriarcale ovunque. Possiamo vedere però dei processi inediti, se vogliamo, in parti del mondo che non è più possibile trascurare. In Iran, dopo la rivolta Donna, Vita, Libertà, che è partita ormai da 2 anni, ancora continuano a esserci delle ribellioni al codice di abbigliamento, oppure al divieto di guidare, al divieto di studiare. E quindi abbiamo visto delle donne che hanno manifestato protestando per le strade, ballando e sfrecciando su delle moto, impennandosi addirittura contro, appunto, il divieto di guidare. Ahuda Riei si è ribellata spogliandosi fuori dalla Azad University di Teheran, protestando contro il codice di abbigliamento. Migliaia di persone sono scese per strada nel nord-est della Siria per protestare contro la condanna a morte dell'attivista curda Varise Moradi da parte del regime iraniano. E infine possiamo ricordare altre proteste che ci sono state qualche mese fa. Migliaia di donne indiane sono scese in strada per reclamare la notte dopo uno stupro all'interno degli ospedali, e quindi le dottoresse sono scese in strada mostrando che non è possibile accettare ancora una volta in silenzio che la violenza venga usata anche come strumento per esigere obbedienza dentro i luoghi di lavoro. In Francia, Turchia, Germania, appunto Italia, ci saranno delle grandi manifestazioni per il 25 novembre. In Francia lo slogan è molto bello, si chiama Padrone, Patria e Patriarcato, stessa lotta. Quindi vuole davvero collegare la lotta contro l'imperialismo, il razzismo e il patriarcato capitalista con quella contro la violenza sessista e sessuale come arma di guerra, e è strumento per imporre lo sfruttamento sul lavoro e l'obbedienza in casa. Anche in Germania i movimenti femministi protesteranno contro lo stupro come arma strategica usata nelle guerre in corso e contro le logiche del militarismo e della virilità anche laddove, come pure in Italia, si stanno definanziando le case contro la violenza sulle donne, i rifugi per le donne. In Turchia un'altra grande manifestazione ci sarà per rivendicare la notte a Istanbul, ancora una volta chiamata insieme alle donne curde, contro la violenza di Stato, contro il massacro del popolo curdo e contro la violenza maschile, con lo slogan Donna, Vita, Libertà. E anche in Italia, come abbiamo detto, ci sarà la manifestazione Disarmiamo il Patriarcato. Sicuramente sono degli indizi che le donne stanno lottando per sopravvivere, stanno lottando contro la violenza maschile, stanno lottando per smantellare la logica militarista come intensificazione della violenza maschile e del patriarcato come modo per subordinare una parte e in realtà mettere in soggezione tutta quanta la società. Quindi credo che qualche cosa si sta muovendo e anche a livello di proteste possiamo dire che il movimento femminista non si è fermato in questi anni. Bene, io credo che con questo spirito e messaggio di resistenza di cui sono portatrici le donne in tutto il mondo possiamo chiudere degnamente questa puntata. Eleonora, io ti ringrazio molto per il tuo contributo. Grazie a voi, grazie mille. Ti aspettiamo presto in Italia. Prima di chiudere vi ricordo ancora una volta che fino al 6 gennaio è possibile supportare Radio Città Fucico partecipando alla campagna abbonamenti Una Radio Incontenibile. Tutte le informazioni le trovate su www.radiocittafucico.it/abbonamenti. La puntata di oggi finisce qua, noi ci risentiamo la prossima settimana sempre su Radio Città Fucico. Started a big war of magic and